Allora, vabbè, intanto buonasera a tutti, il corteo è andato bene, sono vere le voci che avete sentito, però non sono di Forza Nuova loro, sono di Alternativa Popolare, che penso si sa solo che Catanzaro, loro praticamente, Se riesci a parlare un pochino più forte. sì, loro praticamente facevano parte di Alternativa Sociale, poi si sono distaccati e sono diventati Alternativa Popolare. Praticamente hanno chiesto contemporaneamente a noi hanno fatto una richiesta di un corteo e la questura l'ha concesso pure a loro. Praticamente si sono svolti, cioè in teoria dovevano svolgersi due cortei e loro l'avevano chiesto il percorso che avevano richiesto loro era uguale e contrario al nostro. Praticamente è proprio una provocazione, non era nemmeno né un presidio né un corteo diverso, ma proprio lo stesso corteo, solo al contrario. E la questura ha deciso, malgrado, nonostante tutto quello che è successo il 30 ottobre, di concederli a tutti e due. Solo ridimensionando entrambi i cortei, nel senso che a loro è stato concesso di fare il corteo verso la zona nord della città, mentre noi nella zona sud. In realtà quello che è successo invece praticamente proprio nella giornata di oggi è che si è svolto un corteo, quello nostro, che è partito da Piazza Matteotti fino ad arrivare a Piazza Prefettura, mentre il loro non c'è stato, era semplicemente una provocazione. Speravano, credo io, di fare annullare entrambi i cortei. Quindi non ci sono riusciti, loro hanno fatto un misero presidio in una piazza in un punto di ritrovo giovanile, Giardini di Catanzaro, e invece noi abbiamo fatto un corteo, un bel corteo, non partecipatissimo purtroppo, ma è stato un corteo diciamo di militanti. C'erano 500 persone ed è stata una risposta comunque a quello che è successo. Senti, intanto raccontaci anche quali sono le condizioni del compagno che è stato ferito e era in ospedale. Ruben sta bene, è uscito dall'ospedale una settimana fa e niente, adesso comunque si sta cercando di riprendersi dall'operazione, da tutto quello che ha comportato il suo ferimento. E qual è il clima adesso comunque nella città? Il tema è che comunque noi ci aspettavamo una provocazione oggi nelle vie di Catanzaro, magari passando il corteo, pensavamo potessero esserci delle provocazioni, e invece è andato tutto liscio. Ed è questo che volevamo questo perché non aspettavano altro comunque di attaccarci, perché i giornali in questi giorni, da quando c'è stato l'accoltellamento, hanno messo sullo stesso piano i compagni e i fascisti, dicendo che appunto sono due opposti estremismi che devono scomparire dalla città. Questa è stata quello che hanno scritto sui giornali. Vergognosamente, perché cioè, sono due discorsi completamente differenti. L'antifascismo è un valore che non riguarda solo i compagni, ma dovrebbero valere per tutta la società civile. L'atmosfera che si respira è abbastanza pesante, perché comunque non sappiamo. Comunque se quando usciamo dalla città possiamo subire altri attacchi, perché oltre a Ruben è stato anche attaccato dopo qualche giorno un altro compagno, è stato aggredito fuori dall'ospedale, appunto era andato a trovare Ruben, quando è uscito l'hanno aggredito in 5 persone, quindi è un'atmosfera abbastanza pesante. La manifestazione sì è stata una risposta ed è stata importante per una città come Catanzaro, in modo da che non potesse cadere sotto silenzio quanto avvenuto. Però naturalmente adesso è importante continuare a lavorare dopo la manifestazione. quindi cercare di nuovo la voglia e la forza di continuare il lavoro, nonostante comunque il clima che si sente, il clima che si respira qui in città.